Adesso abbiamo mezz'ora scarsa. Io la utilizzerei per un primo pronunziamento, una prima avance di primo spezzone di discussione, se è possibile. Sì, grazie, subito, volentieri. Segre. Dico subito che non mi sono preparata perché ho preso degli appunti mentre si parlava stamattina, ma vorrei proporre alla discussione e anche agli oratori intanto alcuni problemi e poi alcune proposte di discussione e anche interpretazione. Intanto, professor Eckert, vorrei chiedere cosa intende per paura degli ebrei. È un concetto che se noi ritroviamo, possiamo anche ritrovarlo oggi nella vita di oggi. E non è secondo me, è molto discutibile se quella si chiama paura. E semmai vogliamo un senso di colpa dal suo punto di vista, forse l'avrebbe piuttosto interpretato in quel modo. Non mi pare che nelle popolazioni di allora ci fosse paura degli ebrei. L'unica vera paura era, e qui richiamo in un certo senso l'appello alla Herem che avrebbero non avrebbero lanciato gli ebrei contro le città, che quando talvolta gli ebrei vengono accolti nelle città italiane, parlo sempre d'Italia, il partito contrario all'accettazione o una delle motivazioni per non accettarle è che provocano il Dio per vendetta provocherà sciagure. Sono esempi. Ma negli statuti a Chivasso, lo statuto di Chivasso prevede espressamente le sciagure che possono accadere in città se gli ebrei che sono stati espulsi verranno mai accettati. Ci sono da quelli naturali a quelli di morte degli animali e persino a proprio crolli degli edifici. In quel senso forse si intende paura. In quanto poi al processo che si svolge a Trento, già il fatto, come ha ben illustrato Quaglioni, che si parli di inquisizione, gli ebrei non erano sottoposti, non avrebbero dovuto essere sottoposti ad alcun tribunale dell'inquisizione. Tant'è vero che vorrei raccontarvi due episodi, due richiami alla tradizione di Trento, nei quali viene espressamente previsto che gli ebrei erano stati tolti al loro giudice naturale. Il primo caso è Pinerolo. Nel 1475, siamo nell'agosto, il Consiglio Comunale di Pinerolo registra il ritorno di un domenicano che è stato mandato a Trento a procurarsi le reliquie di Bernardino e di Simonismo. E siamo letteralmente in tempo già di comunicare, di fondere la notizia, di spedire un inviato e già di averlo di ritorno. E lui ritorna e dice, ha con sé una lettera del Hindeba che è registrata nel Consiglio Comunale di Pinerolo, in cui il vescovo si scusa di non potergli dare la reliquia, dice comunque che ci creda, perché tutti ci credono, e di nuovo c'è la fama pubblica, e comunque dice che per poter procurare la reliquia attende la sanzione del Papa e dell'Imperatore. E si commenta che gli ebrei non erano sottoposti solo all'autorità, alla giurisdizione pontificia. Comunque, continua la delibera del Consiglio Comunale di Pinerolo, al domenicano sono già stati fatti leggere gli atti del processo ed è testimone del fatto che sono assolutamente veritieri. Qualche anno prima, poi abbiamo un altro caso in cui in Piemonte si richiama la tradizione di Simonino. E siamo nel 1557. non si fosse 55. Comunque, gli anni sono quelli delle difficoltà in Piemonte. E un senatore, Boba, scrive a Emanuele Filiberto segnalandogli che c'è stato ad Asti un caso che le truppe d'occupazione, le truppe imperiali, garantiscono che è assolutamente analogo al caso di Bernardino. Non ho la citazione perché... comunque, è la descrizione del modo in cui è stato trovato, ucciso questo bambino, corrisponde perfettamente. E dice, la cronaca garantisce, e commenta il senatore Bobba, dice, ma da noi questo non può succedere, perché da noi, grazie alla vostra, a voi duca, gli ebrei vengono sottoposti solamente al loro giudice naturale. E anche per completare questo, potremmo dire che in pratica anche gli omicidi rituali, la loro tradizione in Italia sta per finire. Ormai, tutto sommato, il Concilio di Trento sistema giuridicamente la posizione degli ebrei, prevede il loro isolamento, li ha qualificati in un certo modo, li chiude in ghetto, li brucia il Talmud, e tutto sommato è molto meno necessario di prima, o è molto meno giustificabile di prima, e spiegabile di prima, l'omicidio rituale. E vogliamo proprio si chiude con questo, l'ultimo rogo in Italia di ebrei, è quello dei Marrani, che può essere emblematico di una certa situazione. Siamo Paolo IV, 1556. Gli ebrei non si bruciano più, si bruciano invece coloro che sono ritenuti ormai cristiani per un atto di volontà superiore. Sento che rebbe adesso al padre Eckert, se posso mediare nella lingua. Vorrei però nel frattempo fare una precisione che ho dovuto fare qualche altra volta in quest'aula, cioè la parola inquisizio, qui il professor Qualioni è debitore di una risposta, non credo che come usata questa mattina intenda quella che è l'istituzione dell'inquisizione, è semplicemente un elemento procedurale del io lo dico perché mi riesce strano nell'ambiente trentino in questi tempi l'inquisizione con la lettera maiuscola non aveva nessuna possibilità di ingerenza, e qui semmai si tratta del giudice naturale che sta procedendo. Ma qui aspetto poi risposta dal professor Qualioni. Pater Eckert, wollen Sie bitte erklären Ihnen di Basti, professor in Segre, gefragt. Also, Frau Segre fragt, also meint, also, dass über die Angst gegen die Juden etwas Genaueres gesagt werden müsste. Also, sie meint, so allgemein gesagt, kann man nicht von einer Paura, von einer Angst gegen die Juden sprechen. Die meint eben, dass wenigstens im italienischen Gebiet keine solche Angst gegen die Juden da gewesen sei, und eventuell müsste man das genauer präzisieren. Wenn man die Akten des Trienter Prozess liest, und dann kann man sich eigentlich das Fragen der Ankläger nur erklären aus dem Motiv der Angst. Und darauf möchte ich insistieren. Ich weiß nicht, ob Trient darin ein Sonderfall ist, aber das ist mir jedenfalls bei der Lektüre aufgegangen, dass immer wieder das Motiv der Angst eine Rolle spielt. Und es ist mir besonders aufgegangen in dem Punkt, den ich ausdrücklich erwähnt habe. Sie fragen immer wieder, warum werden beim Verlesen der Haggadah die 10 Plagen Ägyptens erwähnt. Und was mich dabei besonders frappiert hat, war, dass sie hinzusetzen, ihr habt ja auch Grund, uns zu hassen. Das heißt, das ist genau das Moment, das ich herausgegriffen habe. Es artikuliert sich für mich ganz eindeutig das Moment der Angst, die aus schlechtem Gewissen geboren ist. Wenn man nur noch die besondere Situation von Trient hinzunimmt, den Gegensatz zwischen den weitgehend deutschsprachigen Juden, ist nur eine Familie italienisch, gegenüber der italienischen Gesamtbevölkerung, so glaube ich, dass auch da noch etwas unterschwellig ist. Aber worauf ich besonders abheben möchte, ist, dass mich bei der Lektüre der Prozessakten am meisten beeindruckt hat, also von allen anderen abgesehen, die Reaktion der Richter, die immer wieder fragen, ihr müsst doch Gründe haben, uns zu hassen. Und das ist es, was mich dazu bewegt, zu sagen, es gibt, subjektiv gesprochen, einen Grund für Angstgefühle. Und das ist etwas, was gar nicht so selten ist, dass die Majorität vor einer qualifizierten Minorität Angst hat, es ist die Projektion ihrer Vorstellungen in die Minorität hinein. Und das ist für mich deswegen so wichtig, weil wir Minoritäten auch heute unter uns haben. Und Minoritäten sind immer besonders geeignet, in die Rolle von Sündenböcken zu rücken, und besonders geeignet, auf sie Vorstellungen, Feindvorstellungen zu projizieren. Und er spielt immer, also auch in Trient, aber nicht nur in Trient, dieses Motiv der Projektion eine ganz große Rolle. Posso tradurre. Dunque, padre Eckert ritiene di ricavare questo proprio dalla lettura dei processi di Trento, dove si insiste in una maniera anormale da parte dei giudici nel tema che riguarda le 10 piaghe d'Egitto e la citazione di queste, per rispondere alla domanda che continuamente affiora: voi ci odiate e per quali sono i motivi per cui voi ci odiate? Noi veniamo da voi odiati e non comprendiamo, cioè ritiene che siano motivi teologici, diremmo motivi profondamente radicati nel modo di evocazione religiosa proprio degli ebrei, e per questo continuamente frugano intorno a questa questione che dal lato procedurale della pura giustizia è anomala, è del tutto marginale, per capire cosa c'è sotto da questa parte. Più largamente lui cerca di interpretare questa situazione come una forma di paura delle minoranze. La minoranza viene vista come un elemento che in qualche maniera mette in discussione e costituisce una fonte di insicurezza per la maggioranza, e da lì scatta un meccanismo che tende a caricare sulla minoranza la cattiva coscienza, dice il padre Eckert, certi disagi di fondo che sono della maggioranza, ma che insomma si scaricano quanto possibile da quella parte, costituendo la minoranza un po' come un capro espiatorio. Così lui tende a interpretare questa paura, no? Che proprio nel caso di Trento insomma si sente sotto le testimonianze, vero, processuali, nella documentazione processuale. Forse c'era il professor Quaglioni che io avevo tirato per concludere un po' questo intervento della professoressa Segre e quello che essa presentava, no? Sì, prego, prego lei, sì. Sì, sì. Grazie. Malicek, riguarda questa questione del giudice naturale, allora sì, tocca a lei. Ho una questione che si rivolge a Reca e al Sir Paglioni, e poi una piccola aggiunta. Abbiamo saputo dalla relazione Paglioni che i giuristi trentini, Lidis, Laschetta e Benemonimo, erano del parere che il signore, cioè Duca d'Austria, aveva il diritto di aveva certi diritti. Mi pare che Sigismondo in effetti voleva intromettersi in questa fase, perché nella primavera del 75 egli mandava certi ambasciatori a Trento, tra i quali era Jacob Trapp, maestro di corte di Sigismondo, un personaggio ben noto della regione perché era signore di Peseno, di Vano, di Cardonazzo, eccetera, un personaggio molto importante. Ma io ho tratto questo da vari documenti di San Francisco, ma per sfortuna Jacob Trapp in quel periodo era sul punto di morire. È morto nell'agosto del 75, in conseguenza non poteva più intromettersi in questa affare. Questa è la piccola aggiunta che volevo fare. La domanda è: tutto quello che abbiamo detto si concentra sul giudice in cui sta di Trento, ma chi era questo giudice? Era rappresentante di che cosa? Qual è la biografia di questo giudice, che cosa si può dire? Grazie. Si haben schon verstanden. Die Kompetenzen des Landesfürsten von Tirol, der einen Beauftragten, den Jakob Trapp, abordnete und der nicht, aber wegen Krankheit nicht erscheinen konnte. Ja. Dann war die zweite Frage, um die Person, wenn ich gut verstanden habe, mehr als über die Kompetenz des Trienter Richters, die Figur, die Biografie, hat Malicek gesagt, des Trienter Richters, der Podestà. Ja. Ist das richtig? Ja, ich unterscheide natürlich sehr wohl zwischen der formalen Seite des Prozesses, über die Paglioni ja dann hauptsächlich spricht, und der materialen Seite. Und für mich ist es von großem Interesse zu sehen, wie durch das formale Vorgehen doch hindurch schimmert die materiale Seite, was den Podestà angeht. So scheint mir, dass er nicht unbeeinflusst ist von der Stimmung in Trier. Wir wissen, dass dieser Podestà für ein Jahr hier gewählt war. Wir wissen seinen Namen, Paglioni hat auch darüber gearbeitet. Ich selbst habe auch einiges an Materialien über ihn zusammengestellt. Was mich interessiert ist, dass er auf der einen Seite versucht, ganz formal vorzugehen, um sein Urteil unanfechtbar, formal unanfechtbar zu machen. Dass er auf der anderen Seite ganz offensichtlich beeinflusst ist von der Stimmung in Trient. Und dass zunehmend, und das ist bei der Lektüre der Prozessakten wirklich geradezu dramatisch, von dieser Stimmung angesteckt wird, sodass er sich ein Frageschema erarbeitet. Wenn man die Prozessakten liest, dann kann man gewissermaßen dieses Frageschema rekonstruieren. Und eines meiner Argumente in dem Prozess, zur Analyse des Prozesses ist, dass man herausbekommen muss, welches Frageschema der Podestà erarbeitet hat. Und dann verwundert einen die Antworten, die von der jüdischen Seite gegeben worden sind, nicht mehr. Denn sie entsprechen genau diesem Frageschema. Und was das Frageschema angeht, so kann man sich nun nach den Frageschemata halten, an die Frageschemata halten, wie sie in Handbüchern auch der Inquisition gebraucht worden sind. Also in die ganze Frage, der Pater Eckert unterscheidet wohl eben zwischen dem formalen Aspekt, dem rechtsformalen Aspekt und dem è ora del pranzo per tutti presto. Dunque, distingue tra l'aspetto formale, giuridico formale e l'aspetto materiale della questione, no? E naturalmente lo storico è sommamente interessato all'aspetto materiale. Ecco, quanto al podestà, sappiamo che era eletto per un anno e sappiamo, dice evidente, che non fu privo di influsso, fu certamente influenzato, era influenzato nella questione. È chiaro che da un lato egli procedette accuratissimamente in un modo da non render contestabile il suo operato, quindi con osservanza meticolosa delle formalità, perché per non rischiare domani annullamenti o rigetti del processo. Ma è altrettanto chiaro che Padre Eckert ha detto non solo influenzato, ma addirittura infettato dello stato d'animo dell'ambiente di Trento nel usare i suoi accorgimenti giuridici, no? Per cui si vede questo soprattutto nello schema che gli propone, nel questionario che lui porta avanti, no? Certamente influisce e traspira dentro la corretta procedura formale una prevenzione generale che non è soltanto la sua, ma è quella di tutto l'ambiente. Direi adesso, sì, dopodiché credo che sospendiamo per riprendere pomeriggio, prego. Ho circoscritto la cosa alla questione del giudice che era affiorata. Sì. Ho chiesto prima la parola. Non ho difficoltà, solo che l'ora del pranzo scocca a l'una, è bene che tutti lo sappiano, e noi la discussione la riprendiamo nel pomeriggio, non c'è dubbio. No? Professore, se lei chiede... Sì, va bene, sì, sì. Alla signora una piccolissima precisazione su un nome. Asher, lei ha citato un Asher che è Amschel. Poi ha detto, se non ho sentito male, che nelle fonti latine è Angelo. Ecco, questo sarebbe contro tutte le regole, diciamo, perché Amschel diventa solo Anselmo e non mai Angelo. Non ho mai trovato, eppure ho frugato parecchio intorno alle corrispondenze dei nomi, la faccenda di Angelo. Chiuso. Piuttosto importante invece vorrei questa questione, che non ho sentito ancora aleggiare in tutti i discorsi intorno al processo. Bernardino da Feltre aveva predicato a Trento 5 giorni prima che scoppiassero i fatti e aveva detto: prima di questa domenica, cioè entro 5 giorni, avrete voi che trattate così bene gli ebrei, avrete una prova della loro iniquità o di quello che sono veramente gli ebrei. Questa previsione di un avvenimento che non c'era ancora stato non ha messo nessuno in curiosità, cioè che la stessa, è un paradosso forse, ma che la stessa uccisione del bambino per creare poi una colpevolezza degli ebrei sia stata in certo senso organizzata perché avessero realizzazione le parole di Bernardino da Feltre. Comunque è quello, sì. È una cosa che, una domanda che pongo per anni. Sì, sì, però sì. Questa storia di dire guardate che entro 5 giorni voi avrete un qualche cosa, diciamo, di clamoroso, insomma, da parte ebraica, e prima che accadesse. Quali sono le connessioni fra la previsione di Bernardino e i fatti? Sì, grazie. Sul presupposto credo si discuterà ancora nei particolari. Rispondo solo alla prima, il problema dei nomi. Il problema appunto delle varie traduzioni dei nomi, in particolare questo Asher, Ansel, Angelus, secondo lo Steinschneider era possibile questo passaggio Ansel, Angelo. So che lei aveva scritto, avevo letto quello che lei aveva scritto a proposito, che non era d'accordo su questa, però c'è un dato di fatto che qui in ebraico è chiaramente Ansel, non ci sono dubbi, la parola ebraica. No, ci sono tutti e due i nomi. Lui dice Ansel Alevi detto Asher. Ansel, noi sappiamo i nomi dei condannati, eccetera, non esiste Anselmo. Anselmo non esiste da nessuna parte, mentre esiste Angelo. Quindi non è possibile identificare diversamente questo Ansel Alevi detto Asher che con l'angelo delle fonti latine. E quindi questo di fatto si apre un problema che però in questo caso mi pare evidente, cioè non c'è altra possibilità perché Anselmo non esiste nei processi. Mi perdonate se... Allora proseguiamo, cioè passiamo senz'altro alla discussione dei temi di questa mattina. C'era anzitutto una domanda di... Ma ecco, l'ho trascurato. Bene, uno dopo l'altro, tengo presente subito. Allora, primo, secondo, terzo. Che è quello che un po' si distacca dalla normalità delle osservazioni, perché secondo me in una giornata che è stata destinata al processo di Trento non si è assolutamente toccato il fondo della questione. Cioè, chi è stato ad uccidere il bambino? Perché se non sono stati, come tutti sono convinti, che non sono stati gli ebrei, che sono stati tirati per i capelli per creare tutto quello scompiglio che conosciamo e che abbiamo naturalmente messo nella spazzatura, chi è stato? Non ho sentito nemmanco una volta nominare Johann der Schweizer, che sembra che fosse stato l'autore dell'assassinio. E allora è stato lui perché mi pare, scusate, che in una giornata intera dedicata al processo di Trento e in fin dei conti alla morte di questo bambino si cerchi di dire due parole intorno, almeno come in via di ipotesi, intorno a quello che si suppone che sia stato l'autore dell'assassinio. Scusate. Uno dopo l'altro, sentiamo perché forse ce n'è più di uno che converge sul medesimo. Prego. Sì, prenda pure questo microfono. Sono. Tac. Sono Giorgio Politti, Università di Venezia. Dunque, io esprimo personalmente, per quella poca frequentazione che ho delle fonti processuali, un profondo scetticismo sulla possibilità di rifare a 4 secoli di distanza un'istruttoria con esito positivo, soprattutto quando le carte del gioco sono state falsate in partenza. E parlando di fonti processuali, ritengo personalmente, non so se questo sia condivisibile, che l'errore più facile e peggiore che si possa fare quando si ha sotto mano un processo, la tentazione più forte che si ha è, come ha detto un mio illustre collega, quella di spintonare il giudice e di mettersi al suo posto e di pronunciare non si sa quale sentenza. Il problema su cui desideravo più che altro chiedere una precisazione riguarda la, diciamo così, un problema che è stato sfiorato più volte in questa giornata in tutte le relazioni, in termini che a volte mi hanno lasciato un po' perplesso, e cioè sulla popolarità di questo avvenimento. Per quello che posso giudicare da quello che è stato detto da tutte le relazioni oggi, io ho registrato una quantità impressionante di prove di una operazione portata avanti con estrema decisione in ambienti esclusivamente ufficiali. Anche la diffusione iconografica di questo pomeriggio, per quello che ho potuto capire, segue vie ufficiali, dove arriva il culto, a Chiari, a Brescia, perché c'è il medico, dove arriva, dove ci sono i francescani. Quindi il principe vescovo, quindi il medico, quindi un ordine. Mi pare che il fatto, nella sua struttura generale, sia abbia dei termini, direi, classici. Un evento aperto a migliaia di interpretazioni, il ritrovamento di un corpo, e che viene letto in termini, direi, nettamente persecutori, non intendo persecutori nel senso di paranoidi, alla luce di uno stereotipo vecchissimo. Io la più antica testimonianza che ricordo di omicidio rituale sta nell'Ottavio di Marco Minucio Felice, dove è descritto in termini quasi identici. In questo caso è applicato non contro gli ebrei ma contro i cristiani. Una tematica che poi ritorna in ambiente bizantino, ritorna in ambiente armeno, ritorna in Occidente dopo il 1000 e viene applicato a Valdesi, contro Fraticelli, nella versione, nella variante del Barilotto, contro ebrei, non esclusivamente contro ebrei. E si tratta di una tematica esclusivamente colta. Non voglio con questo, per carità, fare del facile populismo e dire non c'era antisemitismo in altri ambienti, me ne guarderei bene. Dico però due cose: uno, che bisogna dimostrarlo; due, che non c'è soltanto un tipo di antisemitismo, ce ne sono diversi, così come ci sono diverse concezioni di stregoneria, di maleficio, di sabba. Mi pare sia stato documentato recentemente in termini molto convincenti che il sabba non è mai stato presente in ambiente popolare. Il maleficium sì, è una cosa completamente diversa. Rispetto quindi alla paura che, se non ricordo, se non ho capito male, padre Eckhart ricordava agli inizi di questa giornata, io credo che, non ho difficoltà a crederlo, che dagli atti del processo, che purtroppo non conosco, trapeli una paura. Ma ecco, chi ha paura di chi? Cioè, se siamo in presenza di una così, di una serie di tensioni che operano all'interno di ambienti ufficiali e che, sotto lo schermo del rito inquisitorio, che è l'unico che possa consentire a queste valenze di dilagare verso l'esterno, non dilaga appunto fino a ad aggredire e a coinvolgere un determinato gruppo che viene accusato, imputato, che diventa l'elemento sopra la cui testa si scaricano queste tensioni, che poi possono avere una serie di utilizzi e di valenze politiche che mi paiono abbastanza chiaramente leggibili in questo contesto e in questa epoca. Io non sono un esperto di santità medievale, ma se non sbaglio questi sono decenni in cui molti principi cercano di trovarsi un santo, diciamo, che in qualche modo marchi la loro autonomia da Roma e li aiuti a portare a termine un processo di territorializzazione che poi sappiamo quali grandi sviluppi avrà nei decenni successivi in Europa. Ecco, questa era solo la domanda, diciamo, e la mia personale diffidenza nei confronti di una fonte stupenda come i processi, che proprio perché è stupenda può indurre a una serie di sottovalutazioni della serie di filtri e di preparazioni a monte che prima di qualunque processo, che in fondo è una grande sceneggiata, no? C'è. C'è qualcuno che vuol rispondere, oppure intanto lasciamo che ognuno interiorizzi quanto ha ascoltato. C'era una domanda di professore, se lei crede. Lei è tra i relatori della mattinata. Sì. Che questa sia chiedo scusa, il primo intervento, sia il secondo, credo che meritino una risposta immediata. Io credo che qui nessuno voglia rifare il processo nel modo più assoluto, e credo che a nessuno sia ignota la difficoltà di lettura delle fonti processuali, non la lettura materiale, perché anche quello è un problema. Chiunque abbia maneggiato quelle fonti sa che è molto facile perdercisi, e ci sono, noi potrebbe farlo, ci sono molti esempi di infortuni anche gravi. Parlo della difficoltà di lettura di fonti che sono fortemente strutturate, il cui grado di formalizzazione, come si diceva stamattina, è molto alto, e che quindi vanno lette assolutamente dall'interno, con grande perizia, insomma, e con grande prudenza, con conoscenza tutti gli aspetti formali del procedimento inquisitorio, ma anche con buona conoscenza degli aspetti dottrinali, no? Di prassi, di letteratura. Ecco, chi è stato? Quindi io credo che qui non ci siano curiosità da cronaca giudiziaria da soddisfare. Il problema dello Schweizer è un problema serissimo. Abbiamo sentito orora che nel manoscritto alla Yeshiva University mancano i due fascicoli relativi, anzi il fascicolo relativo allo Schweizer, con l'interrogatorio dello Schweizer e quello di sua moglie Dorotea, donna di cattiva fama, come dicono gli ebrei, e sua complice nell'omicidio. Certamente fu il nostro Menestrina ad argomentare già molto bene intorno a quel fascicolo, sottolineando come la deposizione, insomma, dello Schweizer sia piena di particolari curiosi, e sottolineando come un buon giudice avrebbe dovuto andare a fondo, è vero, in quell'interrogatorio. Lo Schweizer non viene mai sottoposto a tortura, viene interrogato presso la sala privata del capitano Desporo. Gli viene riservato, insomma, un trattamento di favore, gli si crede senza difficoltà, si crede così a sua moglie, che costituisce il suo unico alibi, così come il suo compagno di lavoro, che è un valtellinese, Cipriano da Bormio. Egli stesso, dovendo allegare la testimonianza di almeno due testi, perché unus testis nullus testis, ecco, in ore duorum stat, è vero, ecco, omne, vox nullius, vox nullius, e potremmo continuare, cita la testimonianza di un secondo lavoratore di cui non ricorderebbe il nome. Insomma, il suo interrogatorio si risolve in particolari che non hanno, è vero, che non hanno certamente molto, molto fondamento, e che non avrebbero dovuto convincere un giudice. Lo Schweizer viene scarcerato perché nel frattempo gli ebrei confessano. Il commissario apostolico era convinto della colpevolezza dello Schweizer, aveva messo le mani su un testimone, Anzele o Anzelinus, che con uno stratagemma riesce a portare a Rovereto, ed è questa l'arma che a Trento si teme di più, tanto vero che questo testimone si cerca di farlo scappare in alcune occasioni. Il testimone viene condotto a Roma, si ha notizia di lui e di una sua detenzione in Castel Sant'Angelo e ad un certo momento sappiamo che muore, ecco, scompare, non si sa più nulla di lui. Sono questi forse gli aspetti così più oscuri della vicenda sui quali, ahimè, certo le fonti non ci dicono molto di più e sulle quali forse non si potrà mai fare una luce completa. Lo Schweizer esce di casa per andare al lavoro e poi fa il giro delle chiese di Trento. La sua deposizione è una specie di descriptio urbis, una specie di descrizione della città di Trento e delle sue chiese, molto interessante anche per altri versi, ma non prova, ecco, la sua estraneità. Per personale inimicizia, ma al di là di questo, nei confronti di Samuele, per vecchi rancori, per vecchie... Ah, l'accusa esplicita di alcuni ebrei, sì. Sì. Gli ebrei. Ma lo Schweizer è un uomo di malaffare, cioè è un noto facinoroso, anche se nella sua deposizione può accampare buone amicizie nell'ambiente del castello, può dimostrare di essere in buoni rapporti con gli ufficiali del capitano e del podestà, e sappiamo anche che lavorava in uno degli orti del vescovo di Trento. Tutto questo. Lavorava, credo, ad partem, cioè era in qualche modo lavorava a mezzadria, no? A mezzadria, un terreno che apparteneva, credo, al vescovo. Ma sono gli aspetti più oscuri della vicenda, ecco. Sì, il buon commissario era convinto di esserne venuto a capo, tanto vero che se lo portò a Roma, questo, sì, il commissario apostolico portò a Roma il suo testimone e riteneva con questo di avere per le mani una buona prova, una prova testimoniale sufficiente, ma le cose andarono poi diversamente. Non vorrei pazienza, ma fare una domanda in materia procedurale, cioè cominciare quello che abbiamo già iniziato. Per essere più breve, l'ho scritta. Per primo vorrei sottolineare come mi pare importante di accertare quello che nel basso medioevo era procedura accettata, normale, per poi individuare quello che c'è di straordinario anche per quell'epoca. Secondo me era ben legittimo che la procedura inquisitoria partiva da un fatto comunemente conosciuto, come ha esposto lucidamente il Quaglioni, cioè partiva dalla vox publica oppure dal notorium. Al nascere di quella fama pubblica contribuirono sicuramente risultati delle prime indagini preparatorie delle quali ha parlato padre Eckert. Ma poi, secondo me, con perfetta legittimità il giudice, cioè il podestà famigerato, poté procedere senz'altro all'accusa. Atto concreto deve essere stato la compilazione di articoli di sceleri da imputarsi agli accusati. Questi capitoli costituiscono la fila conduttrice per gli interrogatori formali. Tal fatto, mi pare, è la ragione per quello che padre Eckert ha scoperto: le risposte degli accusati somigliano l'una all'altra perché ispirate proprio dalle domande stesse, cioè ciò vale soprattutto per quelli fatti sotto la tortura. Adesso vengo alla domanda. Perché ci apparisce un dubbio? Il Paglioni ha esposto come in uno dei trattati composti per la difesa del processo viene messo in rilievo la conoscenza del principe, scientia principis, che poteva sanare tutti gli eventuali difetti che potrebbero essere commessi dai giudici. Ora domando, il professor Quaglioni, secondo il suo giudizio, quale ne è la ragione? La solita malsicurezza dei giuristi medievali, sempre perseguiti dalla paura di aver fatto uno sbaglio procedurale, oppure la certezza di un procedere sbagliato, di un errore di giustizia, di un justizirtum? A quest'ultima possibilità di spiegazione forse si aggiunge l'atrocità con cui il Hinterbach in quella scrittura di difesa anonima cambiò l'invocazione da in nomine Christi a in nomine Antichristi, cioè di Satana. Sì, per quanto riguarda la diffamatio che deve precedere l'apertura di un procedimento, anche qui insomma, abbiamo visto che la difesa degli ebrei contestava che si trattasse di una diffamatio giuridica, cioè di una fama, di una mala fama, di una cattiva fama che fosse sufficiente ad autorizzare il giudice a procedere nel modo in cui egli poi ebbe a procedere. Per quanto riguarda l'argomento della scientia principis, io credo che quello fosse un buon argomento da agitare in curia romana. Credo che non fosse, per esempio, un buon argomento quello che invece nell'ambito trentino si svolge dell'arbitrium del quale il podestà godeva per norma di diritto statutario, contra ius commune, insomma. L'argomento della scientia principis poteva essere un buon argomento di fronte ai cardinali, molti dei quali erano certamente versati in iure canonico, e io stamattina mi sono sentito di azzardare una spiegazione. Penso cioè che l'argomento fosse esposto in analogia con alcuni punti della corrente dottrina del rescritto, che riguarda anche naturalmente solo il rescritto imperiale, ma anche il rescritto pontificio, insomma, no? Il rescritto contra ius è valido se vi è presente la clausola espressa ex certa scientia, oppure de motu proprio, come sarà in seguito, no? Questo credo che possa essere servito al Pavini a introdurre un argomento che comunque fosse, giustificava ogni vizio procedurale, quando anche vi fosse stato, o qualora, così come del resto accadeva, i legali degli ebrei o il commissario apostolico avessero nella discussione tirato fuori l'argomento del vizio procedurale, così come del resto in effetto avveniva. Ecco. Era un argomento che doveva servire come argomento risolutivo, insomma. Quando anche vi fosse un difetto procedurale, la scientia principis, l'aver proceduto il podestà ex certa scienza del suo principe, lo metteva al riparo da ogni vizio, da ogni difetto, insomma, e quindi da ogni contestazione di nullità. Ecco, professor Calì ha chiesto la parola, mi pare. C'è in fondo una alzata di mano. Alla conclusione di questa giornata intensa, riallacciandomi a quanto Giorgio Politi appunto diceva nel suo intervento, che mi è parso particolarmente felice nel centrare la questione, mi pare che su questa questione del Simonino si dimentichi che effettivamente il ruolo dell'autorità è un ruolo appunto molto pesante, talmente pesante che noi oggi facciamo questo convegno molto interessante, di cui va dato sicuramente atto a Monsignor Roger anche del coraggio di averlo voluto affrontare proprio a Trento, tenendo presente che però un atto culturale come questo non trovo un corrispettivo anche dal punto di vista dell'autorità, di come si muove l'autorità su questa questione del Simonino. Per dire che noi non abbiamo effettivamente ancora oggi verifiche sul pregiudizio ebraico, anti-ebraico e antisemita su questa questione di Simonino, perché le autorità ci impediscono di fare una verifica su fino a che punto, ad esempio, nella popolazione trentina è perdurato questo fatto di Simonino. Perché? Cioè, qui c'è, vedete, il Comune di Trento partecipa come promotore di questa iniziativa a organizzare questa cosa, e il Comune di Trento da 4 anni non ha ancora saputo come sostituire questa targa che c'era sulla via di San Simonino, è diventata via del Simonino e nessuno sa ancora tra la popolazione come mai questo da santo è diventato signor Simonino, perché non lo sa nessuno questo a Trento. Quindi c'è una responsabilità ancora oggi dell'autorità, perché qui insomma questo comune ha delle responsabilità, cioè c'è un testo di una targa molto precisa in cui storicamente indicava a titolo di risarcimento dopo 4 secoli riprodurre in sintesi la vicenda, in modo che magari dandogli anche una certa solennità, magari un'inaugurazione pubblica in cui si parla, si scrive, si legge sui giornali, no? Con la oggi c'è la televisione, no? La radio, no, silenzio assoluto. Il Consiglio Comunale approva una targa, il testo da esporre, passano 4 anni, oggi c'è un convegno come questo, la stessa autorità che non mette fuori la targa promuove il convegno. Cioè questo è un paradosso interessante, no? Dal punto di vista culturale, nel senso che l'autorità qui ha ancora paura di fare i conti col pregiudizio, nel senso che noi non sappiamo ancora fino a che punto nella popolazione ci sono stati e fino a quando momenti di questo tipo. No, non usciamo dal campo, Monsignor Roger, non usciamo dal campo, Monsignor Così, Roger. A questo punto devo dirle che lei esce dal campo. Ecco, il titolo del convegno si chiama Il principe Giovanni Hindenburg, Trattato Medioevo e Umanesimo. Non vuole essere un giudizio sul Consiglio Comunale in una questione di denominazione di strada, dove sono pettegolezzi di paese, questa è la mia netta impressione, dove per togliere un albero bisogna fare un processo. Qui ragioniamo sulla questione storica. No, mi scusi tanto, io ho l'obbligo di far osservare l'ambito dei lavori. Io non sono in nessun modo addetto ai lavori, pongo una domanda da profano, ho potuto seguire soltanto a spezzoni il convegno e il titolo della tavola rotonda che mi ha attirato stasera era proprio approccio al problema delle responsabilità personali del principe vescovo Giovanni Hindenburg nel caso di Simone di Trento. Ora, la mia domanda è semplice. Gli esperti che hanno dedicato tempo e fatica e la loro preparazione nella ricerca forse possono darci una certa risposta secondo la loro consapevolezza. In questo senso, dall'intera faccenda possono evincere che il principe vescovo, pur procedendo forse in modo superficiale o con faciloneria, tuttavia era convinto della responsabilità della comunità ebraica in questo omicidio, oppure ci sono indizi sufficienti per cui si può dire che il principe vescovo aveva seri dubbi al riguardo o addirittura fosse in malafede? Non è una domanda, perché non saprei a chi rivolgerla, ma è semplicemente una riflessione sulla base di quello che ho sentito finora e di quel minimo di conoscenza che ho per certi aspetti della polemica relativa al fanciullo Simonino, beato o non beato. E la riflessione sostanziale è questa, che sia la figura di Giovanni Hindenburg, sia l'episodio del Simonino abbiano tre poli, Vienna, Trento e Roma. Nella relazione introduttiva del professor Strad, il discorso è stato portato fino alla consacrazione episcopale, fino alla nomina episcopale, con qualche suggestione che ho trovato di grande interesse e che mi ha lasciato delle curiosità. Ad esempio, credo di ricordare l'indicazione del freno che veniva messo alle richieste cardinalizie, alle interessi cardinalizi, se ricordo bene, dello Hindenburg. Sono rimasto con la curiosità di sapere quale fosse l'atteggiamento, visto e considerato poi gli stretti legami messi in evidenza in maniera chiarissima da professor Snad dello Hindenburg con Vienna, con l'ambiente viennese, con la cultura viennese, con l'Università di Vienna, quali siano state poi le reazioni successive di fronte a quanto accadeva di Vienna. E non è una domanda che faccio perché il programma appunto non è assolutamente a lei, per carità. Però credo che sia importante perché poi io invece ho, ed è un'indicazione non recente che non nasce da questo convegno ma dalla pubblicazione del testo di Battista De Giudice, un discorso per noi romani vecchio, ho l'indicazione di come questo caso abbia spaccato in qualche modo la curia romana o perlomeno certi ambienti romani. Di fronte a questo caso abbiamo sentito ripetere oggi con dei casi ancora, con delle testimonianze ancora nuove, perché finora conoscevamo l'offerta del Platina di scrivere versi, credo che fosse un articolo del 1903 già questo senso. Oggi abbiamo sentito Anna Esposito che addirittura ci ha detto, se non ho colto male, che tra coloro che portano testimonianze per a proposito della beatificazione di Simonino c'è il Platina, non solo c'è il Platina ma c'è Cristoforo della Rovere, credo, vero? E poi non so quali altri personaggi ci siano riconducibili all'ambiente romano. E questo è molto importante, questo è molto significativo, al di là del discorso poi che viene fatto, cioè l'attenzione per Roma, lo diceva Diego, lo diceva ancora di nuovo Anna prima, Anna Esposito prima, il fatto che venga fatta stampare quest'opera a Roma, che si dica che deve essere destinata alla lettura dei cardinali, che debba essere distribuita, è un'operazione che noi chiameremmo adesso con un termine ben preciso, con dei termini ben precisi questa, di formazione della corrente d'opinione. È la lobby romana che appoggiava, che si muoveva a favore dello Hindenburg che produce certi risultati. E allora io credo che il caso, lo spessore di questo dell'avvenimento, ma non soltanto del fatto in se stesso legato al fanciullo, ma della figura dello Hindenburg, debba essere in qualche modo verificata non a Trento ma anche, credo, e a Vienna e a Roma. Io credo che sia importantissimo quello che abbiamo sentito sui riflessi, per carità, sul culto, sulla diffusione del culto, anche lì io ho qualche qualche dubbio, perché non ho capito bene, fra l'altro per mia ignoranza delle località, quale fosse questo raggio di diffusione di questo culto. Mi era sembrata una cosa abbastanza controllabile, insomma, in una un'area abbastanza determinata, però non lo so, e quindi in ogni caso questo, ecco, allora torno a ripetere, forse il discorso va disancorato un pochino da una realtà soltanto trentina per proiettarlo su dimensioni più europee, più grosse, e torno a ripetere, per me ha sempre avuto un enorme significato questo di una presa di posizione di personaggi assolutamente di primo piano, ma fra l'altro questo significherebbe niente, con un certo aplomb culturale, permettetemi questa espressione, come del resto Jacopo Zeno. Ho sentito ripetere più volte il nome di Jacopo Zeno, e Jacopo Zeno non è una persona assolutamente da etichettare in un determinato modo, non saprei etichettare nessuno più a questo punto. Credo che sia però un momento di quella più ampia contrapposizione tra gruppi, non soltanto per problemi religiosi, ma anche e sicuramente su problemi religiosi, che perlomeno ha una sua input, un suo momento di più forte rilievo dal 1468, con la famosa congiura degli umanisti, che poi non si è mai capito esattamente che cosa significhi e quali siano stati i contenuti veri, per cui, e di cui ci sono questi personaggi, fra l'altro. Ecco, testimonianza. Allora credo che il discorso diventi veramente molto più articolato, molto più complesso, e devo dire, ho una grossa curiosità di sapere a Vienna che cosa si pensava di tutto quanto questo. Grazie, questo è molto molto importante, professore. Ecco, sono Severino? Sì. Ecco. Sì, sì, bene. Venga, professore. Posso rispondere in tedesco su queste cose? Monsignore. Sì, volentieri. Es war nicht meine Aufgabe, eine Biografie Hinderbachs hier vorzubringen. Ich habe Monsignore Roger auf seinen Wunsch angeboten, einen Versuch, Jugend, Familie, Ambiente aus dem Hinderbach herausgewachsen ist, zu illustrieren. Ich habe von dieser Warte aus daher diese Problematik sehr wohl gesehen, aber nicht eingehend studiert, daher nur einige Observationen. Das Verhältnis zum Kaiserhof verschlechtert sich von Jahr zu Jahr nach dem Tod Kaiserin Leonoras. 1467, la morte dell'imperatrice, una gran fautrice del Vescovo Hinderbach. Es kommt hinzu, dass er 1471, 1471, auf dem Christentag von Regensburg keinen Erfolg hervorbringt. Daher, drei Jahre später, nicht mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit tritt. In dieser Zeit hat Hinderbach versucht, über andere Kanäle in Rom seine alten freundschaftlichen Beziehungen zu motivieren, um Kardinal zu werden. Der Kaiser hat strikte dagegen sich verwahrt, als Kandidat Friedrichs nominiert zu werden, und hat ihm verboten, solche Spiele sozusagen weiterzuführen. Ich kann mir nicht gut denken, dass Friedrich III. Jetzt interessiert gewesen wäre, einen Trienter Heiligen aufzubauen, wo er selbst zwei Krause noch nicht fertig hatte. Il Bio Magravio Leopoldo III, erst 1485 nach vielen Intervalli, glücklich kanonisiert. Professor Qualioni hat den Namen des Mannes genannt, Bavino, der eigentliche Verfechter der Causa Leopoldi war. Auf der Strecke bleiben musste sowieso der zweite Kasus, Hemma. Hemma von Gurk, una santa della Carinzia, deren Kanonisationsprozess, so merkwürdig es klingt, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs abgeschlossen wurde. Mehr kann ich dazu im Augenblick nicht sagen. Allora, professor Sterna dice, non ha approfondito esplicitamente il caso, porta le osservazioni che dall'insieme ritiene di poter contribuire in questo momento. Il rapporto è che sono questi, il rapporto tra il Hindenburg e l'imperatore va gradatamente peggiorando dal momento della morte di Leonora, dell'imperatrice, nel 1477, la quale evidentemente era la sua protettrice principale. Un ruolo deve aver giocato anche l'insuccesso nella dieta di Ratisbona del 1471, l'insuccesso del Hindenburg in questa dieta, per cui tre anni dopo il Hindenburg non è più alla ribalta per interessi imperiali a questa dieta. Allora in questa situazione si verifica il caso che Hindenburg si ingegna a cercare altri canali di amicizia per arrivare al cardinalato, fuori dall'orbita vero consueta di prima, e questo l'imperatore non lo tollera. In ogni caso non ammette che egli possa procedere in questa strada ancora con la copertura del favore imperiale. Poi da ultima diceva che Federico III era già fortemente impegnato in due cause di canonizzazione che stentavano assai a procedere. L'una era quella di Leopoldo III, che con molta fatica stava maturando, l'altra quella di Santa Emma di Gurk in Carinzia, che non ha avuto successo ed è approdata soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, recentemente alla dichiarazione. In questa situazione non si presume che lui abbia avuto molto interesse di impegnarsi per santi trentini. Queste le osservazioni se ho interpretato giustamente. Ich möchte nur an etwas wieder anknüpfen, was Herrn Filmetti heute Vormittag gesagt hat. Nämlich erinnern Sie sich, wie in einem ähnlichen Fall wie in Trient Kaiser Friedrich III. In Regensburg, in Ratisbona, die schützende Hand über die jüdische Gemeinde gehalten hat. Er war daher nicht bereit, Hindenburgs Politik in Trient so in diesem Ausmaß zu unterstützen. Das vielleicht als Vergleichsmoment. Eine zweite Sache, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sein könnte. Die große Konsorterie Langenstein, Lelle von Dreisen, Hindenburg, Molitor, die beim Aufstieg des jungen Hindenburgs in Wien zahlenmäßig kräftig waren. ist jetzt nicht mehr in diesem Ausmaß vorhanden. Es ist zwar nur ein Hinterbach, aber diese sozusagen so Schutzklientel, die er seinerzeit hatte, die ist nicht mehr vorhanden. Vielleicht käme als agiografische Anmerkung noch dazu. Hinderbach hat sich nicht mehr, trotz seiner anderen hagiografischen Interessen, für die Heiligsprechung des Margrafio Leopoldo eingesetzt. Vielleicht war auch dadurch eine gewisse Strafe schon vorgesehen. Er hat sich für alle anderen Heiligen interessiert, aber nicht für diesen gewünschten Hausheiligen Friedrichs. Vielleicht dazu. Also. Dice qualche altra spiegazione che è emersa anche nella relazione di Elmetti. Appare che Federico III non era molto impegnato in una politica anti-ebraica, né a Vienna né negli altri, nell'influsso a Regensburg, eccetera. Era certo molto più tiepido da questo riguardo e quindi si può anche sospettare che non abbia condiviso al 100% il radicalismo anti-ebraico del Hinderbach. Poi altra osservazione che riguarda quella consorteria di Assiani, vero che nel Hinderbach giovane, ancora in fase di carriera ascendente, era molto potente sull'ambiente viennese, che però adesso andava fortemente assottigliandosi quanto a persone e quanto a peso, a importanza. Nel campo della agiografia è constatato che Hinderbach non si è mai prodigato sopramodo per la canonizzazione del Marchese Leopoldo, e forse anche questo può aver contribuito a una certa freddezza progressiva. Severino, no, prima la professoressa Barone, che anzi mi scuso se non. Solo perché, siccome questa tavola rotonda doveva cercare di approfondire il ruolo di Hinderbach, c'è una frase nella relazione del professor Eckert su cui poi non si è più tornati. Si dice che il podestà ha cercato di svolgere un processo il più possibile regolare, così dice la relazione, per evitare un possibile intervento dell'Inquisizione, perché la materia, cioè come era presentato il caso, non un caso di omicidio, ma un caso di omicidio che avveniva nei giorni della Pasqua in esplicito dispregio della religione cristiana, poteva essere considerata una causa da giudicarsi dall'Inquisizione. Adesso non entriamo Inquisizione romana o meno, un vescovo di norma all'interno della sua diocesi deve tutelare la fede. Allora, perché questo processo è stato sempre e soltanto un processo civile? Non ho capito bene perché, l'ultima domanda. Cioè, perché è stato il podestà che ha condotto il processo? Perché non c'è mai un intervento di Hinderbach come vescovo per avvocare al tribunale ecclesiastico la causa, nel momento in cui, appunto, non si trattava di omicidio, ma di qualcosa di molto più complicato, perché a quanto ho capito, oltretutto, si struttura, si parte da un omicidio rituale pure semplice, e poi si arriva a questa costruzione molto complicata, per cui c'è anche il sabato, eccetera. È ancora il problema del giudice naturale, insomma, del giudice proprio. Ma io non l'ho ben capito, cioè l'atteggiamento di Hinderbach, vorrei chiarire da questo punto. Sì, no. Sì, ma no. Ma nel momento in cui le testimonianze dicevano non è un caso di omicidio, ma c'è qualcosa di molto più complesso, il vescovo avrebbe potuto intervenire dicendo questa è causa mia. Sì. Dal punto di vista formale non ci sono problemi, nel senso che esiste un atto formale di delega al podestà, di tutta la causa. Questo atto non è neppure quello della delega di un processo per omicidio, ma è la delega ad indagare sulla scomparsa del fanciullo, perché il primo documento conservato nei verbali, è quello che appunto ci mostra il padre di Simone che si rivolge in piazza pubblicamente al vescovo per chiedere che si provveda alla ricerca del proprio figliolo scomparso. In quel momento il vescovo delega il suo podestà alla ricerca, dopodiché egli non interviene più. Tutte le volte che noi abbiamo evocato il vescovo nei verbali lo abbiamo solo perché il vescovo, in nome del vescovo, il podestà rende giustizia. Poi solo un'altra volta il vescovo è nominato dagli stessi ebrei, che dicono che nel momento della notifica del ritrovamento del corpo di Simone si sarebbero voluti rivolgere al vescovo e non agli ufficiali del podestà, perché temevano di essere condotti ad macellum, dimostrando di avere in quel momento totale fiducia nel vescovo e invece scarsa fiducia nella giustizia del podestà. Ma non c'è mai nessun atto che intervenga ad avocare il procedimento, ecco, al vescovo. Il procedimento resta nelle mani del giudice criminale, che è il podestà. Ecco, è il podestà. Poi possiamo chiederci il perché, ma insomma lo stato di fatto è questo. Und damit wird eigentlich offenbar die Verantwortlichkeit des, die gefragt wurde, des Bischofs Hinderbach. Nicht? Also auch gerade aus der jetzigen Position heraus, nicht? Also ist es eigentlich sehr deutlich geworden, nicht? Dass der Podestà im Auftrag des Bischofs handelt, also ist der Bischof der eigentlich als Landesfürst. Ja, als Landesfürst. Aber damit, erstens habe ich mit einer Causa Mixta zu tun. Homicidio und Blasphemie sind causa mixta. Und dann ist es sowieso die Frage, nicht? Dann der Bischof als Fürstbischof, in dessen Auftrag der Podestà handelt, mit dem Wissen des Fürstbischofs und, man muss hinzusetzen, mit dem Willen des Fürstbischofs. Damit ist die Frage des persönlichen Interesses und der Verantwortung des Bischofs eigentlich ziemlich deutlich beantwortet. Mio collega e successore nell'insegnamento, Don Severino Varischi, ha chiesto la parola. Voglio tirare più avanti tanto la cosa. Un piccolo tassello sul problema dei rapporti Roma-Hinderbach e Vienna, che ho potuto appurare proprio oggi un po' nei particolari. E quando Hinderbach diviene vescovo nel 65 resta vacante la prepositura della cattedrale, perché lui era preposito, no? Che parlavamo, sì. E la curia tenta per 3 o 4 anni di inserire come preposito, nonostante la bolla di fondazione della prepositura circa 40 anni prima assegnasse questo diritto di nomina del preposito al vescovo, la curia romana tenta essa di inserire un certo Gaspare di Teramo, auditore delle cause a Roma e cappellano pontificio. Finalmente nel 69, su domanda congiunta dell'imperatore Federico III e del duca Sigismondo, il papa Paolo II conferisce al duca di Tirolo il diritto di collazione della nomina e di giuspatronato della prepositura, e annullando espressamente le precedenti norme vigenti, e in particolare nomina espressamente il processo che è in atto, decide che si concluda, e nomina espressamente il vescovo moderno Giovanni del tempo e il suo capitolo, e impone addirittura come condizione per la validità del privilegio concesso al duca che il duca stesso riesca a far diventare preposito già nominato da 4 anni ma che non riesce a prendere possesso, il Gaspare de Teramo. No? Questo in particolare mi sembra abbastanza interessante su, questo, su questi rapporti. Ho proprio potuto oggi vedere meglio la cosa. Se consentite, do a me stesso un attimo la parola. Anche perché io sono responsabile di aver intitolato la tavola rotonda così, non con la speranza di vederne uscita una soluzione certa, e mi conferma appunto dagli interventi anche del professor Politi che insomma neanche in questa occasione noi a dir l'ultima parola su chi ha ucciso il piccolo Simone mi pare che non ci arriviamo. Vero? E è stato anche questo uno dei motivi per cui ho accettato ben volentieri il consiglio di non restringere questa serata a questa unica questione, ma invece di allargarla a una discussione più ampia e ricca come effettivamente si va svolgendo. Ecco, tuttavia io un po' un fatto personale e anche sollecitato dai desiderata che in questa direzione sono venuti fuori e che non sono dunque solo i miei, no? Un fatto personale con questo interrogativo vi confesso che ce l'ho. Se consentite, ricorro a un ricordo personale, anche perché in questa sede mi piace ricordare colei che è stata a modo suo, però molto, molto, direi con molta rettitudine, la promotrice energica della revisione, cioè la professoressa Emma Volli di Firenze, che fu da me intorno al 1960. Lei aveva intuito dall'articolo, dalla voce che io feci su Simone di Trento nella Enciclopedia Cattolica, in tempi in cui noi avevamo ancora il culto ufficiale, vero? Lei aveva intuito che insomma uno storico non ci crede proprio del tutto, al punto che mi fece la domanda molto schietta per dire: lei ci crede al martirio del beato Simone? Io risposi altrettanto schiettamente: no, no? E così ci trovammo discretamente d'accordo, non per motivi particolari, ma per fedeltà a uno statuto di ricerca e di indagine. In questa atmosfera di confidenza conversammo a lungo e a un certo punto però lei mi avanzò anche le sue opinioni a proposito del vescovo Hindenbach e mi esternò la convinzione che in realtà tutta la faccenda dall'inizio alla fine fosse una macchinazione sua architettata a proposito per far fuori gli ebrei, diciamo pure, no? E impadronirsi dei loro beni. Dico tra parentesi, non è un'invenzione cattiva della professoressa Volli, questo discorso l'abbiamo sentito oggi, vero, in più di una delle fonti contemporanee, era un'opinione corrente, rispettabile quanto si vuole, tant'è vero che il delegato papale, il commissario papale, vero, dei giudici, la fa propria lui stesso. Dunque non è perché ritenga impossibile pensare questo. Però io in quell'occasione dissi alla professoressa Volli, e me ne ricordo esattamente: professoressa, noi stiamo cercando di superare un falso giudizio storico che è stato sostenuto con tanta certezza in determinati campi fino al giorno d'oggi. Per piacere, non creiamo un'altra leggenda storica. A priori parlando, non ho nessuna difficoltà ad ammettere questa, che ripeto è un'opinione rispettabile. Però chi lo asserisce, per piacere lo provi. Nemo reus nisi probetur, neanche davanti alla storia. No. E vedo che oggi, insomma, anche in questa sede mi par di poter riassumere così le opinioni che ho sentito in dritto e in obliquo, nessuno riesce a asseverare con certezza questa che, ripeto, era e può essere ancora oggi una rispettabile opinione, ma non una tesi storica. Per me è a questo punto il problema, più che della direi precisa individua responsabilità in tutta questa faccenda, è piuttosto questo su cui sarei grato se il vostro modo di sentire mi aiuta un po' a maturare di più l'opinione. Cioè, non c'è dubbio che nell'ambiente trentino, fino ai nostri giorni, l'errore invincibile, chiamiamolo pur così, l'opinione che gli ebrei avessero ucciso il bambino, ha fatto testo e a modo suo si documentava per l'esistenza dei documenti, insomma la certezza documentaria e ufficiale di un verdetto vero solenne di un tribunale, del resto collaudato sotto occhi critici per il tempo in cui ci si trovava. Allora, è un ragionamento che ho fatto molte volte anche all'interno di casa nostra. Fino a ieri noi eravamo in larga misura in buona fede, in buona fede. Allora, invece, cessiamo di essere in buona fede, e questo costituiva un caso di coscienza, in particolare per me, docente di storia della Chiesa in questa comunità cristiana, e quindi chiamato comunque a esprimersi in riguardo, no? Una volta che mi sono reso conto che le ragioni storiche, viste con una metodologia più matura e più seria, oggi assolutamente non consentono di conservare questa opinione. Con noi cominciava in ogni caso la mala fede, volendo sostenere il caso, no? Ed è questo il motivo per cui io personalmente superiori ecclesiastici e confratelli hanno sentito il dovere di rivedere. Error corrigitur ubi deprehenditur, si dice. Bisogna correggersi quando uno si accorge di essere fuori di strada. Quando ci siamo accorti sicuramente di essere fuori di strada, il processo è stato questo per il nostro tempo. Allora però anche a me si pone un po' il problema relativo al Hinderbach, io lo porrei in questi termini. Era in buona fede? Non era in buona fede. Come sta la faccenda di una possibile buona fede o di una impossibile buona fede in quell'uomo? In quell'uomo, non misurato se col nostro metro, in quell'uomo, in quelle circostanze. Per me il problema si pone in questi termini, si pone in questi termini. Ecco, in quell'uomo che non è lui solo al mondo, e qui se potessi integrare l'osservazione relativa alle autorità che è stata fatta, è vero, non c'è dubbio che l'opinione pubblica nei secoli passati almeno la facevano in grande misura